Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 00 24. Buongiorno, quella di oggi è veramente grossa, vi dico solo i titoli dei giornali che diciamo inquadrano la notizia. Kabul, stuprare le mogli è un diritto. Kabul, la capitale dell'Afghanistan. E questo è il giornale 24 ore, il sole 24 ore, legge talebana legittima lo stupro. Il mattino, Afghanistan, lo stupro matrimoniale. Il Corriere della Sera, il presidente Karzai firma la legge pro stupri domestici. Gli sciiti afghani potranno ignorare i diritti delle donne. È una tremenda notizia, disgustosa notizia, tra l'altro avvolta di mistero, esposta a diversi tipi di interpretazioni, ma che naturalmente ci richiama alla necessità di discutere e forse anche di decidere qualcosa per evitare che questa legge diventi, come dire, entri in vigore effettivamente, e comunque per tamponare la falla. Insomma, l'Afghanistan è un paese dove la dittatura combinata dei talebani e di Al Qaeda è stata smantellata con sacrificio di uomini, di vite umane, con sacrificio geopolitico, sacrificio economico, con un intervento rispettoso delle dinamiche autoctone, perché gli occidentali sono andati lì, ma senza un grande esercito di invasione, non per fare terra bruciata, hanno subito riunito la Loya Jirga, l'insieme delle comunità anche tribali, hanno cercato una classe dirigente di ricambio, hanno convocato le elezioni, hanno messo nel palazzo del potere un presidente eletto, appunto Karzai. E adesso che tutto questo venga tradito da una legislazione compiacente verso una minoranza sciita del 10% della popolazione, con delle leggi pazzesche di questo genere, naturalmente, insomma, questo è un caso in cui, come dire, si va al di là di ogni possibile più nera aspettativa. Noi discuteremo di questa cosa con Stefania Craxi, che è sottosegretario agli affari esteri, con Carlo Panella, giornalista esperto di questioni islamiche e di cultura islamica, autore di un libro che è appena uscito da Cantagalli e che ha il titolo Non è lo stesso Dio, si riferisce ovviamente al rapporto tra civilizzazione cristiana e islamica, non è lo stesso uomo, Bibbia e Corano a confronto. La tesi di Panella è che sul piano proprio dell'antropologia c'è una differenza di fondo tra noi e loro e bisogna conoscerla e saperne le radici, e questo sembrerebbe uno di quei casi, perché una legge di questo genere oggi naturalmente incendierebbe qualunque paese, qualunque comunità occidentale. Abbiamo anche ai microfoni Khaled Fouad Allam, che insegna sociologia del mondo musulmano all'Università di Trieste, è stato deputato del Partito Democratico, oggi è collaboratore anche dell'Osservatore Romano, è un grande esperto anche lui di cultura islamica. E abbiamo poi Suad Zbai, soprattutto deputata del Popolo delle Libertà, presidente dell'Associazione Donne Marocchine in Italia, di cui la stampa dice la deputata perseguitata dalla fatwa, scorta di polizia per Suad Zbai, italo-marocchina, nel mirino degli imam. Insomma, una puntata tremenda, su un fatto tremendo che bisogna affrontare sapendo che stiamo trattando materia infuocata. Bene, 800 24 00 24, il caso della legge afghana in cui si autorizza lo stupro coniugale e in cui, diciamo, i diritti delle donne vengono integralmente calpestati. Potete fare il numero verde e comunicare con noi per discutere questa simbolicamente terribile circostanza, la legge pro stupro di un paese islamico che l'Occidente ha liberato dai talebani e da Al Qaeda. Comincerei con l'onorevole Stefania Craxi, sottosegretario agli esteri. Buongiorno direttore. Buongiorno. Per cercare di capire una cosa, dunque, questa legge è nata in modo un po' misterioso, probabilmente volevano tenerla nascosta e usarla soltanto perché, essendoci le elezioni ad agosto, il presidente Karzai desidera ingraziarsi questa minoranza sciita, Hazara. E nella Costituzione afghana, che è un tentativo di dare una dimensione da Stato di diritto ad una società islamica, diciamo, arcaica, tribale, dove appunto dominavano i talebani fino a qualche anno fa, ci sono tutte e due le cose, c'è il diritto all'eguaglianza, la pari opportunità uomini e donne, anzi da un certo punto di vista il governo afghano è pieno di donne, il Parlamento è pieno di donne, però poi c'è anche un articolo che dice che gli sciiti, la minoranza sciita, ha diritto di farsi la legge da sé, e cioè di conformarsi alla sua interpretazione del Corano e della Sharia, la legge coranica. In questo contesto così confuso, questa legge è nata in modo un po' misterioso, quindi non c'è un testo ufficiale, se ne conoscono i contenuti. Forse siamo ancora in tempo per impedire che entri in vigore e che, diciamo, sfregi questo paese islamico riscattato dal peggio di una dittatura dove le donne venivano lapidate negli stadi. Che può fare il governo italiano? Domanda a Stefania Craxi. Innanzitutto, come lei saprà, direttore, il governo italiano, il ministro Frattini, ha reagito immediatamente molto duramente nei confronti di questa notizia, che, ripeto, si tratta di una notizia ancora semisegreta, nessuno ha visto un testo ufficiale, ma la nostra posizione è stata durissima nei confronti di questa possibilità. Naturalmente io non sono per indulgere al pessimismo cosmico dell'amico Carlo Panella, perché io penso una cosa. Tanto, come lei sa, la mia famiglia è stata ospite di un grande paese musulmano che ha garantito la libertà di mio padre, e come dice anche Swazbai nei suoi diversi interventi, non è vero che la maggior parte del mondo musulmano è un mondo fondamentalista. Si rischia, come al solito, che minoranze aggressive che utilizzano la religione soprattutto con fini di potere e di egemonia abbiano la meglio, e questo va in tutti i modi impedito. Come lei ha detto, anche si tratta di società tribali, quindi anche l'acquisizione piena del concetto di diritti umani è una conquista, è un processo. Quello che può fare il governo italiano e l'Occidente nel suo complesso è non cessare di aiutare l'Afghanistan, sostenendo lo sviluppo, il rafforzamento delle istituzioni democratiche, pretendendo, di fronte a leggi di questo genere, che vengano cancellate, ma non abbandonare la strada del dialogo, dell'ascolto, della pressione pacifica, dialogante, perché questo processo di civilizzazione si inneschi, perché appunto stiamo sempre agendo su società che sono tribali, quindi è un problema di sviluppo, è un problema di cultura, quindi insomma quello che sta facendo il governo italiano è una rigida pressione sull'Afghanistan, contestualmente all'aiuto quel paese a fare elezioni democratiche, a rafforzare le proprie istituzioni giuridiche, di polizia, di institution building. Quindi questo, lei dice niente atti inconsulti, una forte pressione, una dichiarazione solenne e chiara di opposizione a questo sviluppo giuridico folle, e però lei dice una strategia di lungo corso che riguarda lo sviluppo di queste società, la loro emancipazione con strumenti di autoemancipazione. Mi sembra. Io credo che, come dire, il contatto con società più avanzate, più civili, più sviluppate sia l'unico modo, a fine, però. Sì, li ha già aiutati e può aiutarli in futuro. Sentiamo su Hazbai su questa questione, partendo però anche dalla circostanza personale in cui su Hazbai è in questo momento, imprigionata, ecco, è la parola giusta. Onorevole Hazbai, lei ha una formazione laica, rivendica il fatto che molte donne e la maggioranza dei cittadini di moltissime società islamiche, la sua di provenienza, il Marocco, sono laici, senza problemi, cioè pensano la stessa cosa che la Chiesa Cattolica ha cominciato a pensare col Concilio Ecumenico Vaticano II e con la dichiarazione sulla libertà religiosa, che ognuno ha diritto di credere nel proprio Dio e di esercitare il culto in piena libertà. Dunque non vi riguarda questo modo di concepire le cose, però adesso lei che esercita questo questo diritto di tribuna libera in un paese libero come l'Italia, è stata anche eletta a rappresentare il popolo italiano, insomma pare che lei adesso debba girare con la scorta e che sia oggetto di una serie di minacce, perché un certo giro di Islam estremista legato a certi imam piuttosto che altri, non generalizziamo, però la tiene d'assedio, la minaccia e, come dire, tende ad accreditare l'idea che lei sia un apostata, cioè una persona che ha lasciato la religione islamica, che l'ha tradita, cosa peraltro non vera, perché lei continua a professarsi islamica sul piano religioso e del credo e della fede. Però questo è il tentativo di dire: giri senza velo, coi capelli scoperti, ai modi occidentali, vivi in questo mondo, sei fuori dalla comunità, fuori da una connessione di fede, fuori dalla legge della Sharia, e quindi puoi essere colpita in qualunque momento. Partiamo dalla sua situazione personale e riflettiamo su quello che ha appena detto Stefania Craxi, cioè queste società, sì, qualcosa si può fare, si può esercitare una forte pressione, però insomma sarà un lavoro lungo. Ecco. Buongiorno, intanto vorrei dire una cosa, che lei ci manca moltissimo in televisione, tanto. Grazie. E poi per quanto riguarda me, no, non giro con la scorta, ci sono minacce, ma sono da anni che arrivano queste minacce, non solo a me, tanti ai miei colleghi, lo stesso Khaled Fouad Allam, tantissimi amici che ricevono diciamo minacce dalla mattina alla sera, perché non porto il velo, perché, ma non lo portava mia nonna, non lo portava mia madre, non vedo perché io sono in Occidente, vivo in un paese molto più libero, dovrei portare il velo. E per fortuna la maggioranza della comunità non la pensa a questo modo, una piccola minoranza pericolosa, una piccola minoranza che controlla non solo l'Italia, come sappiamo, controlla tutta l'Europa. Molti paesi arabi hanno paura di questi estremisti che vivono nel nostro paese, in particolare al nord, che controllano la situazione, soprattutto oggi c'è una nuova situazione, sono arrivati i salafiti, sono un altro gruppo nuovo, un gruppo più attento, un gruppo molto ordinato, un gruppo che ha molti mezzi. È un gruppo che non si fa intimidire da nessuno, un gruppo che insomma lavora molto bene. Secondo me la preoccupazione è questa qui, che bisogna aprire gli occhi su questo nuovo gruppo che si sta... Ecco, ma mi scusi, onorevole Sbai, andiamo alla radice del problema, perché Stefania Craxi, poi con Carlo Panella e Khaled Fouad Allam approfondiremo ancora di più. Però andiamo alla radice del problema. Lei è donna, viene dal Marocco, rivendica un suo statuto di formazione laico e parla con grande libertà, così come con grande libertà si comporta sulla scena pubblica. Allora, io vorrei capire questo. Cosa c'è al fondo di una roba del genere, cioè una legge che legittima lo stupro in famiglia e che calpesta tutti i diritti possibili delle donne? Non possono avere l'affidamento dei figli, non possono uscire di casa per cercarsi un marito, non possono girare a volto scoperto, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa c'è al fondo? Perché no, voglio dire, arcaismo, cioè usi, costumi che in fondo in modi diversi magari appartenevano anche alle società cristiane di un tempo, oppure un dato profondo di antropologia religiosa, cioè è un uomo fatto in un certo, un essere umano, un concetto di umanità fatto a quella maniera, in cui veramente è impossibile trovare per la donna un posto che non sia un posto difeso, tutelato e poi però radicalmente subordinato al patriarcalismo e al dispotismo familiare del maschio. Ma c'è un nuovo pensiero, è che molti estremisti fondamentalisti fanno politica sulla testa delle donne. Però non ci meravigliamo, perché ci meravigliamo tanto di questa legge nuova che stupra la donna, che non lascia la donna uscire, che non lascia la donna comportarsi in maniera libera? Perché fino ad oggi la donna afghana che cosa ha fatto? Cosa fa? La donna afghana è trattata quanto una bestia, la donna afghana non esce, la donna afghana non ha diritti, la donna afghana non parla. La donna, insomma, fino ad oggi Karzai che cosa ha fatto per le donne? A me mi sembra... No, adesso scusi, onorevole Sbai, le ha messe nel governo, ci sono state elezioni con una... ci sono più donne afghane nel Parlamento afghano che nel Parlamento italiano, donne italiane. Sì, ma è una facciata, intanto non hanno diritti, andiamo in giro a vedere le donne come vivono in Afghanistan. Vivono in inferno, per facciata, certo, li mettono lì, però non è che decidono, come tutti i paesi, anche tanti paesi non democratici, non è così, la donna afghana non ha nessuno. Cioè lei dice non c'è da stupirsi, è un dato di base questo della subordinazione femminile. Panella, lei ha scritto un libro proprio su questo argomento, si può dire, no? Non è lo stesso Dio, non è lo stesso uomo, editore Cantagalli. Allora, è arcaismo o è proprio che l'Islam è incompatibile con la pari opportunità tra uomo e donna, con l'eguaglianza tra uomo e donna? Sicuramente non è un problema tribale, come diceva la mia amica Stefania. Qui dobbiamo registrare un dato di fatto. Nel 56-58 Bourguiba, appunto in Tunisia, interessante questo suo riferimento, fece un codice di famiglia che abolì la poligamia e che soprattutto all'interno di una cultura islamica e all'interno dell'interpretazione della Sharia disse no, i diritti della donna e dell'uomo sono uguali. In Tunisia una legge del genere sarebbe assolutamente inconcepibile. Però da allora, dal 58 ad oggi, dobbiamo registrare che quella scommessa, la scommessa di Bourguiba, è una scommessa che ha perso all'interno del mondo musulmano. Io vi leggo. Però il Marocco ha varato un diritto di famiglia, sì, avanzato. E c'è stata questa cosa, c'è stata questa felice, però al di fuori del Marocco, insomma, i diritti della donna nel mondo islamico sono dei diritti calpestati, perché è possibile una lettura del Corano che viene fatta non da gruppi minoritari ma da gruppi maggioritari, in cui la posizione della donna è una posizione di eterna minorenne. Guardate, questa è la concezione che vive nel Corano. Vi leggo una breve frase del commento al Corano più venduto in Italia a cura dell'UCOI di Hamza Piccardo. Se la moglie non si sentisse di continuare la convivenza matrimoniale, può ottenere il divorzio offrendo al marito una compensazione materiale. Cioè la donna, secondo l'Islam più praticato in Italia, nelle moschee italiane, deve riscattarsi come se fosse una semischiava, una liberta. Allora, all'interno di questa concezione subordinata della donna, che ha un riferimento anche al testo coranico, insomma, il Corano, ricordiamoci una cosa molto importante, per varie ragioni che non vi sto qui a spiegare, nell'Islam non esiste un principio femminile di divinità, non esiste la Dea Madre, non esiste la Madonna, non esiste niente da quanto riguarda il principio femminile di Dio, non esiste, è stato abrogato. Allora, all'interno di questo si creano le situazioni come quelle di Karzai, che poi ha delle bassissime, come lei ha detto prima, motivazioni politico-elettorali addirittura. E all'interno di questo mondo, di questa dinamica, l'Occidente ha le sue colpe. Noi non poniamo dei vincoli, noi non mettiamo delle condizioni agli aiuti che diamo. 800240024, la legge afghana che autorizza lo stupro domestico. Omar da Milano. Omar. Sì, pronto, buongiorno. Sì, io sono Omar, sono algerino, vivo a Milano. La mia, sì, com'è che io sono musulmano convinto, praticante, in senso che vado almeno due volte al giorno alla moschea a pregare. Certe cose, certe leggi, cioè, dell'Islam li sto imparando in Occidente, dico, anche se ero un frequentatore di moschea, mi sono un po' perso un po' nella vita per i principi musulmani, ma certe cose le sto imparando in Occidente, nel senso con la propaganda anti-Islam. Dico che questa qui, il confronto si sta facendo, che voi state facendo con la comunità afghana o con l'Islam in generale? Questo che la gente deve chiarire. E come la vostra ospite del Marocco dice che le arrivano le minacce perché non porta il velo. Ma dico io, ma voi viaggiate, andate in Tunisia, andate in Algeria, andate, vedete le donne, parecchie donne sono senza velo. Non so, dico che il vostro ospite, il Craxi, suo padre è stato ospite da un paese, non so, sicuramente è andato a trovare il suo padre in Tunisia, avrà visto le donne senza velo, non so se ha mai sentito che sono state minacciate. Io credo che queste sono pubblicità che si vogliono fare queste persone per diventare famose, come la Somara, quella in Olanda, è tutta una propaganda anti-Islam perché loro diventano... Prendiamo l'esempio, Magdi Alam, c'era quasi tutti i giorni nella radio e in TV, da quando si è convertito al cristianesimo è sparito, non l'ho più sentito. Li usate queste persone per la vostra propaganda anti-Islam, secondo me è questo il discorso. Grazie e buongiorno. Grazie a lei, Omar. Sergio da Milano. Pronto? Sì. Sono Sergio da Genova. Sì, da Genova. Spenga la radio. Sì, spenga la radio. Ferrara, niente, innanzitutto ho il piacere di sentirla e volevo dire la mia anche su questo argomento qua, nel senso che a parte che sono inorridito per la telefonata precedente, vabbè, comunque soprassediamo, e volevo dire che a questo punto qua cosa ci siamo andati a fare noi come soldati, come forza militare, come forza anche di interposizione di pace in Afghanistan? Praticamente non è cambiato nulla. Cioè, addirittura le cose sono anche peggiorate, perché qua si sta facendo la legalizzazione della sottomissione della donna. Cioè, a questo punto qua io farei una proposta di ritiro immediato dei contingenti militari e delle forze di interposizione, perché dovevano sparire i talebani, se si ricorda lei, quando siamo andati le prime volte in Afghanistan. Dovevano sparire i burqa, per un altro livello simbolico. I talebani non sono più al potere, però ci sono sempre e sempre più potenti. I burqa ci sono sempre. E allora a questo punto qua, adesso addirittura si legalizza la sottomissione della donna, se mi fa proprio una legge, quindi mi dica lei. Va bene, aspetto grazie. Una risposta, grazie. Grazie. Alfredo da Varese. Sì, direttore, mi sente? Certo. Sì, buongiorno. Io quello che vorrei dire è che soprattutto nell'analisi di Pannella, ma in generale, mi sembra che si sottovaluta la necessità di storicizzare le cose, cioè le società si evolvono non necessariamente tutte negli stessi tempi. Lei prima l'ha detto, anche in Italia, anche in Occidente, un secolo, due secoli fa, un uomo sotto processo per avere stuprato, tra virgolette, la propria moglie, anzi senza virgolette perché poi questa è la realtà, la propria moglie, sarebbe stato assolto. Ovvio che è giusto che si sia arrivati a questo livello, sì, di no, sviluppo. Se per questo, se per questo, se per questo le organizzazioni, diciamo, che indagano sulla violenza in famiglia dicono che lo stupro in famiglia è una realtà ancora oggi. Il problema è la legge, cioè il problema è che comportamenti appunto di tipo tribale, barbarici, premoderni, arcaici si possono sempre dare, ma fissarli in una legge tutelata e garantita, la Sharia dà addirittura una verità coranica, insomma questo è diverso, no? Esattamente diverso dal nostro, quindi il problema che ci dobbiamo porre è come dialogare con questi livelli di sviluppo storici diversi dal nostro, grazie. Bene, sentiamo Khaled Fuad Alam, che è stato anche troppo zitto. Omar ha detto voi state facendo propaganda anti-islamica, ci avete seccato su Azbai, a chi la vuole raccontare, ma quale violenza, ma quale minaccia, le donne nei paesi musulmani girano anche tranquillamente senza velo, e insomma mi sento sotto attacco, e invece altri, come ha sentito, dicono no, qui c'è un problema grande come una casa. Lei che pensa? Io credo che ci sono, che bisogna avere una lettura più scientifica di ciò che sta avvenendo. La prima è che non possiamo fare l'economia del fatto che oggi l'Iran subentrerà probabilmente nella questione afghana, e il matrimonio a tempo, il nikah al-mutwaq, questo diritto di matrice sciite non sunnite, ovviamente fa parte un po' di questo tassello politico che non da un contentino all'Iran, ma in un certo senso è una via di passaggio per il miglioramento dei rapporti fra l'Afghanistan e l'Iran. Secondo punto, è vero che questa ovviamente è una legge arcaica che si trova soltanto nel mondo sciita e non nel mondo sunnit, ma ci insegna qualcosa. Come diceva giustamente l'onorevole Stefania Craxi, che i processi di cambiamenti, di modernizzazione sono estremamente lenti e che non basta avere una classe dirigente moderna, occidentalizzata per attuarli, ma è necessaria avere ovviamente una società civile in grado di accoglierla. Ora questa società civile in grado di accoglierla non c'è, non è presente e ci vorrà molto molto tempo. L'altra cosa è che noi abbiamo festeggiato anche l'anniversario dei diritti dell'uomo, ma noi ci accorgiamo di una cosa fondamentale, che questa questione dei diritti dell'uomo, dell'essere umano, ecco, hanno bisogno oggi di una governance mondiale, e questa governance mondiale non c'è. E su questo l'Occidente probabilmente sbaglia, perché di fronte all'utilizzo di legge arcaica dovrebbe invece dire di no, impedire assolutamente questo, fissare dei criteri standard, perché il grande rischio è che va a monte ovviamente il difficile processo di cambiamento, di modernizzazione, direi di piccola democratizzazione che si è innestato comunque all'interno del mondo islamico. E quello, è quello che dice oggi Pierluigi Battista nell'editoriale del Corriere della Sera. Lui dice sì, va bene, d'accordo, certo, bisogna capire, comprendere. Ci sono elementi per cui insomma, bisogna stipulare dei compromessi, però poi c'è una linea oltre la quale non si può andare. Una legge che dice che la donna è una cosa... E che può essere... Sono perfettamente d'accordo, perché io posso citare il mio caso personale nella mia famiglia. La Costituzione algerina, ad esempio, dava praticamente eguaglianza, ecco, e parità fra uomini e donne, ma poi nella realtà antropologica era tutt'altro, perché il diritto della persona, il diritto costituito di dinario, ecco, era totalmente refrattario a questa visione emancipatrice della donna. Anche in politica bisogna avere molto pazienza, ma la politica, proprio come diceva l'editore di Pierluigi Battisti, che non ho letto, non deve oltrepassare un certo limite, perché viviamo nell'era della globalizzazione. Come diceva Victor Segalen, non esistono più mondi lontani, l'Afghanistan è comunque vicino a noi. Certo. Panella voleva dire qualcosa, poi sentiamo Nordin da Modena. Io sono molto d'accordo con l'ascoltatore che diceva che bisogna storicizzare, ma questo è proprio il punto. E questo è il punto. Se noi storicizziamo, ci accorgiamo che certo dal punto di vista degli usi, dei costumi, siamo tutti dentro un processo storico, ma quello che è avvenuto negli ultimi 40 anni è che i gruppi dirigenti dei paesi musulmani sono diventati sempre di più subordinati a una lettura sbagliata della Sharia, una lettura tradizionalista della Sharia. Con alcune eccezioni, il Marocco. Con la sola eccezione, naturalmente, dell'India, che però è un paese a minoranza musulmana, del Marocco e della Tunisia. Vediamo l'Algeria. Appunto, l'Algeria, lo status della donna algerina negli anni 60-70, anche da un punto di vista legale, era uno status in cui c'era questa Costituzione, poi c'era la pratica materiale in cui la donna era subordinata. Ma che cosa è successo negli anni 90? Che gli algerini, laicissimi algerini, hanno fatto un codice di famiglia in cui la donna per sposarsi deve ancora chiedere il permesso ai maschi di famiglia. Cioè, c'è la cosa preoccupante non è il fatto che ci sia un processo storico lento alla base, che abbiamo vissuto anche noi, figurarsi, codice d'onore in Sicilia, tutte queste cose che vengono dette sempre. La cosa preoccupante è che le classi dirigenti, le classi dirigenti islamiche, stanno vivendo un processo di regressione proprio sul terreno della donna e della libertà. Non dimentichiamo che in Afghanistan c'è stato il caso dell'apostata condannata a morte, che adesso è ospitato in Italia. Lei dice, se storicizziamo, cosa giusta per evitare di fare condanne di termo un fascio, poi però dobbiamo prendere atto del fatto che la storia sta andando nella direzione sbagliata. Nordin da Modena. Buongiorno. Allora, io, il mio parere personale è che anche se vediamo l'emancipazione femminile in Europa, è nata dopo le modifiche che ha subito, secondo me, la struttura socio-economica della società. I legami familiari, l'accesso al lavoro da parte delle donne ha aiutato l'emancipazione delle donne. Questo non è ancora avvenuto nelle società islamiche. E anche una lettura progressista del testo coranico è possibile, però la diciamo, c'è un gruppo di intellettuali che offre una tale lettura, soltanto che i regimi politici nella maggior parte dei paesi islamici, peraltro sostenuti anche dall'Occidente, non danno alternativa, non danno accesso a questo gruppo. Anzi, in genere questo gruppo affidano le società a questi gruppi che tengono ancora a vedere la donna e la società nel suo insieme in un modo, possiamo dire, anche medievale. Allora in qualche modo la colpa è anche vostra, perché quando le sinistre negli anni 60 e 70 erano molto forti, potenti nelle società islamiche, sono stati lasciati al loro destino, che era, avevano un progetto ambizioso, progressista, ma non hanno avuto occasione di arrivare al potere. Invece dall'Arabia Saudita fino all'Iran, alla Nord Africa, ci sono ancora regimi politici, possiamo dire dittatoriali, che non hanno alcun interesse nel fare legislazione progressista, perché non gli interessa se la donna emancipa o no. Cioè, secondo me, mio modesto parere, questo è il motivo. No, è un parere motivo. Interessante. Lei di dov'è? Io sono del Marocco. Del Marocco. Grazie. Piero da Roma sulla legge afghana che introduce lo stupro domestico, ancora non in vigore ma varata in circostanze misteriose, che naturalmente fa discutere tutti, in particolare l'Occidente. Ne parleremo adesso con Suad Sbai, coloro che, avendo radici e fede islamica, lavorano in Occidente e praticano la libertà religiosa e la pari opportunità, l'eguaglianza tra donna e uomo, sempre imperfetta ma tendenziale perlomeno in Occidente. Piero da Roma. Io vorrei dire che praticamente noi occidentali pensiamo sempre di avere la ricetta giusta e soprattutto cerchiamo di imporla agli altri. Allora, innanzitutto da noi fino non due secoli fa, ma nel 1956 c'è una sentenza della Cassazione in cui il marito aveva diritto allo ius corrigendi e per fare questo aveva diritto a esercitare una vis modica nei confronti della moglie, cioè prenderla a botte, ma questo 1956, cioè 50 anni fa. Però soprattutto, cioè, noi possiamo imporre che coloro che vengono qui rispettino certe cose, ma sentirmi dire no, ma allora andiamoci dall'Afghanistan, allora facciamogli questo, boicottiamoli, perché loro hanno certe abitudini, o chiamiamole come volete, mi sembra veramente un assurdo. Noi vogliamo esportare il nostro tipo di democrazia, noi vogliamo, abbiamo chiesto alla Corea di non mangiare i cani durante la loro, quando hanno fatto le Olimpiadi. A noi nessuno ha mai chiesto di non mangiare carne bovina, eppure in India è sacra. Noi, siccome il cane da noi è un animale sacro, il professor Veronesi veramente ce lo chiede tutti i giorni di non mangiare carne bovina. No, vabbè, ho capito bene il suo punto di vista, Piero, e non so come reagirà su Azbai, che naturalmente lei invece ha sentito su Azbai. Sento, sì. Cioè, ci sono anche gli occidentali iperrelativisti che dicono ma lasciateli fare quello che vogliono. Ma quando tira fuori 1700, stiamo parlando 1700, stiamo parlando del mondo globalizzato, stranamente gli arabi quando vogliono andare avanti in economia vanno avanti come le macchine di ultimo grido, oppure l'elettronica ultimo, no? Anzi molto più avanzata, oppure perfino in Iran il nucleare, vanno avanti. Quando si tratta della donna bisogna tornare al 1700, bisogna tornare al Medioevo, bisogna tornare, non capisco, insomma, non vede alla fine. Cioè lei dice lo sviluppo da un certo punto di vista, cioè le strutture sociali sono cambiate, ci sono elementi, per esempio in Iran questo è molto vistoso, no? La civiltà del bazar, c'è una borghesia, una classe media, eccetera. Però poi i rapporti sociali invece sono ancora improntati a questa antropologia che vede la donna sottomessa, no? Ma è politica, è perché è stata studiata a tavolino dai fratelli musulmani, dagli estremisti, e nella testa della donna che si fa la politica e continuano a fare politica. E come diceva l'altro ragazzo, non so, dell'Algeria, non so, che non Nordin, che condivido tutto quello che ha detto, infatti viene dal Marocco stranamente, che lui ha imparato l'Islam in Italia, ma ha imparato un Islam radicale che non ha niente a che vedere con il Nord Africa, non ha niente a che vedere con l'Islam marocchino. Capito. Che alla... Vito da Milano, Vito. Sì, buongiorno dottor Ferrara, volevo portare buongiorno. Il mio contributo. Io sono sposato con una marocchina da 18 anni e conosco perciò il Marocco molto bene, c'ho addirittura la casa, vado tutti gli anni dal Marocco. Però volevo analizzare un attimino il discorso dell'Afghanistan. È totalmente diverso, perché quell'area lì, le tre nazioni, Afghanistan, Pakistan e Iran, lei dottor Ferrara ce l'ha presente negli anni 60 quando c'era lo Shah in Iran, il Khan negli anni 40 in Pakistan e il re in Afghanistan. I costumi erano totalmente diversi. Le donne andavano in discoteca, uscivano con le minigonne, eravamo tutti, ho visto dei filmati. Ecco, noi dobbiamo analizzare come mai questi tre paesi dopo si sono fatti avvinghiare dai mullah, dai talebani eccetera, e sono riusciti adesso politicamente a tornare indietro di 100 anni, perché questi sono tornati indietro di 100 anni rispetto agli anni 60. Questa è l'analisi che noi dobbiamo fare. Poi io spezzo una lancia, perché ha ragione Omar, lei vada in Marocco a vedere, le donne vanno in costume da bagno, in microchini, c'è adesso una ministra della famiglia in Marocco, una donna, una ministra, che ha fatto delle leggi che sono identiche alle nostre, dove le donne hanno gli stessi diritti delle donne italiane e i mariti non si può, per sposarsi una seconda moglie devono, è praticamente impossibile, dove esiste per lo Stato il matrimonio è solo con una donna. E girano liberamente in Marocco, perché voi dovete anche capire che le persone maghrebine, faccio un esempio del Maghreb, che vengono in Italia, sono mediamente di un'istruzione, la media, di un'istruzione inferiore, perché è logico che come quando partivano gli italiani per andare in America, sono partiti più disperati, più problematici. In Marocco c'è una classe media di 5 milioni di persone benestanti su una popolazione di 30, quelli lì sicuramente non ci vengono in Italia, cosa devono venire a fare? È logico che vengono quelli a tentare più fortuna, e fra questi che arrivano c'è una minoranza integralista che, come i nostri italiani che non... che erano, diciamo, italiani nel profondo, parlo dei mafiosi eccetera, non si sono mai integrati negli Stati Uniti con gli altri americani, questi qua non riescono a integrarsi nel nostro tessuto. Grazie del suo... dell'Afghanistan va analizzata attentamente, perché questi sono tornati indietro. Lei lo sa Ferrara, negli anni 60 l'Afghanistan era la meta dei figli dei fiori, sono andati un sacco di europei, lì c'era la libertà quando c'era il re. Ecco, il fatto strano. Va bene, grazie molto del suo racconto e anche del punto che lei pone. Rapidamente lo affrontiamo. Sono andati indietro. Siamo responsabili anche noi. Il regime dello Shah era un regime, diciamo, fallace, cioè un regime con degli elementi anche di atrocità. La sfida dell'occidentalizzazione spesso si è accompagnata con forme di dispotismo, di subalternità all'Occidente, di rapina delle materie prime, di subalternità politica, ecco, il Khan, lo Shah, il re in Afghanistan, e quindi, o addirittura l'invasione sovietica, insomma, elementi di autodeterminazione nazionale. Quindi alla fine lapidare, mettere il burka, fare questo tipo di leggi, comportarsi in questo modo retrogrado, forse è sembrato anche un elemento di difesa dell'identità, tragicamente dobbiamo dirlo. Finiamo con Khaled Fuad Alam, lei pensa che questo sia vero? Ma in realtà credo che le società musulmane sono schizofreniche, nel senso che accettano la modernità materiale, economica, ma in gran parte rifiutano la modernità sociale, e su questo ci sono delle battaglie. Il mondo musulmano è spaccato in due, questo è vero, l'ha detto l'onorevole Craxi, l'ha detto la nostra collega Swazbai, e ne fa anche purtroppo anche le spese la Swazbai, e su questo ci sono delle battaglie che sono politiche, che sono culturali. Però non dimentichiamo che c'è anche una strategia politica in tutti i paesi musulmani, per paura in un certo senso di essere superato sulla riva del fondamentalismo, del radicalismo islamico, si assiste a quello che si chiama una shariatizzazione del diritto. E cosa vuol dire la shariatizzazione del diritto? Che poco a poco si dà sempre più maggiore possibilità al diritto musulmano musulmano, che è un diritto che risale al Medioevo, a entrare nelle norme civili. Va bene, e questo è esattamente il problema di cui abbiamo discusso stamattina. Grazie Khaled Fouad Alam, grazie a Suad Zbai e a Carlo Pannella. Vi ricordo il suo libro Non è lo stesso Dio, non è lo stesso uomo, Bibbia e Corano a confronto, edito dall'editore, dal benemerito editore Cantagalli. In redazione Franca Fossati e Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini, Giorgio Matè, linea al GR e poi a Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Grazie a tutti, a domani.